English Bit di Giulia Crivelli. Disruptive. Clicks versus bricks and other disruptive trends in retail. La rivista specializzata in finanza online Seeking Alpha titolava così un articolo sui cambiamenti in corso nel mondo della distribuzione. Click contro mattoni e altri trend di discontinuità nel mondo del retail, potremmo tradurre. La parola che ci interessa è disruptive, tra gli aggettivi più usati anche giovedì e venerdì scorso durante l'ottavo Luxury Summit organizzato dal Sole 24 Ore nella sede milanese del gruppo, in cui si è parlato molto della rivoluzione digitale e di come i marchi della moda e del lusso la stiano affrontando. Letteralmente disruptive significa causing problems, noise, so that something cannot continue normally. L'aggettivo può quindi essere usato per indicare qualcosa che crei problemi, ad esempio rumori un po' molesti, tanto da impedire che ciò che stava succedendo prosegua tranquillamente. She had a disruptive influence on the class. Aveva il potere di distrarre la classe. La parola è quindi perfetta per indicare cosa sta succedendo nel mondo del retail. I marchi devono scegliere se investire sui click, cioè su internet, potenziando i siti e la loro parte e-commerce, o se continuare a puntare sui bricks, che non sono i brick, i paesi, Brasile, Russia, eccetera, che poi sappiamo che hanno tradito le promesse, ma i bricks con CK finale, cioè i mattoni, i negozi fisici. Esiste naturalmente anche il verbo to disrupt, regolare, quindi to disrupt, disrupted, disrupted. In questo caso possiamo dire demonstrator succeeded in disrupting the meeting. I manifestanti riuscirono a disturbare, interrompere la riunione. Oppure bus service will be disrupted tomorrow because of the bridge closure. Le linee di bus subiranno delle modifiche, dei disservizi per via della chiusura del ponte. Il sostantivo è invece disruption. We aim to help you move house with minimum disruption to yourself. Vogliamo aiutarti a traslocare causandoti i minori disagi possibili. Notiamo l'uso di to move, che significa muovere, ma anche traslocare. E torniamo al mondo del retail. La conclusione, almeno per il mercato americano, è che one key trend has emerged in the battle between click and brick. Click is clearly winning. C'è un trend ormai chiaro nella battaglia tra shopping virtuale, click, e reale, brick. Quello virtuale sta chiaramente, e la ripetizione è evoluta, vincendo.